Ora si truccano tutte, i tempi sono cambiati. Non mi interessa. Mamma, ti rendi conto che tutte Vanessa. Le mie amiche già si truccano? Rebecca si colora tutta col consenso della madre. Ma io non sono la madre di Rebecca. Se vuoi vivere secondo le sue regole, ok, vai a casa sua. Qui dentro invece non voglio vederti truccata, va bene? Mi sono spiegata? Il trucco divide e diventa occasione di litigio. In studio con noi Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto, ciao e benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Le ragazze crescono e iniziano a truccarsi, le mamme non vogliono e le ragazze si truccano di nascosto, magari in ascensore. Le mamme rimangono spiazzate perché fino al mese prima o all'anno prima, quando le loro figliole si truccavano, giocavano proprio a facciamo come se io sono la mamma, e quindi le mamme di quel gioco lì erano molto onorate e anche molto divertite. Nell'ingresso in preadolescenza e in adolescenza invece il trucco è facciamo come se io non sono più la bambina della mia mamma, ma divento completamente un'altra persona. Quindi un trucco per differenziarsi dagli adulti di riferimento, per diventare un po' più se stessi, dove si allarmano gli adulti. Quando quel trucco diventa una maschera che ti fa diventare qualcosa di completamente diverso da ciò che sei. Quindi potremmo dire alla mamma che da una parte si spaventano in modo assolutamente adeguato se quel trucco lì mette addosso alla figlia un'immagine che non le appartiene. Dall'altra invece dovrebbero non allarmarsi troppo quando quel trucco lì è usato semplicemente per sottolineare una o due caratteristiche che sono proprio appropriate, che raccontano bene il viso delle loro figlie. Quindi per me la cosa migliore tra madre e figlia in un passaggio del genere non è lo scontro, ma è l'alleanza, cioè mettere a disposizione della figlia la propria competenza, un po' il proprio armamentario anche di make up, per costruire un'idea che io e te insieme possiamo usare questo a servizio della nostra bellezza e non a maschera della nostra bellezza. Grazie ad Alberto Pellai per queste indicazioni. Quindi mamme, alleatevi con le vostre figlie anche nel beauty case dei trucchi. Assolutamente sì. E noi ci facciamo aiutare dalla dottoressa Seri. Dottoressa, stiamo parlando di trucco, di make-up per le mamme che hanno ragazzine giovani, sui 12-13 anni, che le vedono alle prese con mascara, fondotinta, fard. Un po' la preoccupazione o forse la scusa che viene spesso utilizzata è ti rovinano la pelle. Noi lo stiamo già dicendo, no? Nel corso della puntata, ma abbiamo dei consigli pratici per giovani pelli? Certamente, sono assolutamente d'accordo con il professor Pellai sulla necessità di un'alleanza madri-figli, madri-figlie anzi, e di trasmettere le competenze. Quello che è importante è che le ragazzine, sin dalla più tenera età, usino trucchi validi e non i trucchi magari che recuperano quelli vecchi. Bisogna scegliere trucchi possibilmente ecodermo-compatibili. Quindi magari marchiati, certificati, oppure basta guardare un attimo le indicazioni di SkinEco, e non solo non fanno male, ma possono fare bene, a patto di essere usati con criterio, un po' per benino, e lavati bene alla sera. Lavati bene vuol dire con un buon detergente, oppure con un'acqua micellare, detergente struccante per pelli sensibili, e poi sciacquati via con acqua e pannettino, asciugamanino o spugnetta. In questo modo non solo non fanno male, ma fanno bene, perché fanno bene alla pelle. Il trucco può anche avere un'azione protettiva per la pelle. Inoltre fa bene alla psiche, perché talvolta maschera alcune imperfezioni cutanee, le prime acne dei rossori, che mettono disagio alle ragazzine e quindi le fanno sentire più a posto dal punto di vista anche proprio dell'inserimento sociale, che a quest'età è così importante. E in più può essere anche un protettore solare, se vogliamo, il trucco. Protegge dai fattori ecologici e dall'inquinamento. Non è assolutamente dannoso, purché non sia occlusivo. Secondo me il trucco può essere un grande alleato. Il trucco alleato. Per il trucco. Il trucco per il trucco. Il trucco è divertente, è un acquisto anche edonistico. Ripeto, l'importante è scegliere bene trucchi ecodermocompatibili che non siano a base di paraffina e che non siano a base di siliconi. La paraffina si riconosce perché si chiama paraffinum liquidum ed è la vaselina ed è un derivato del petrolio, mentre i siliconi si riconoscono perché il loro nome finisce in one, anche se sono termini in inglese, quindi, o in silosano. Quindi attenzione ai termini che finiscono in one, soprattutto per il trucchi, non solo per le ragazzine. Anche se sono ipoallergenici, a volte sono ricchi comunque di siliconi. Nella mia opinione ed esperienza sono assolutamente indicati quelli ecodermocompatibili, quindi fatti con chimica verde, la green chemistry, che è la chimica più dermoaffine, e con magari anche coloranti selezionati, senza profumi, fatti in maniera assolutamente sicura. In questo modo possono essere utilizzati. Secondo me il trucco e il make up a me piace molto, anche come dermatologa non trovo che faccia male, e trovo che sia molto importante potersi sentire a proprio agio con se stessi e con gli altri, sentire più belli. Io lo vedo anche con me stessa, magari non se ne accorge nessuno, ma tu sai che con un pochino di fard, con un pochino di rossetto ti senti più a posto. Immediatamente sei più bello, ti comporti da più bello, ti senti più a tuo agio, e questo è molto importante perché il make up ben fatto non maschera, non crea maschera, non fa esalta trucco, ma esalta e soprattutto mette a proprio agio la persona. Dottoressa Serri, quindi sì al trucco adeguatamente scelto. Io rimando, oltre le indicazioni che avete sentito in onda dalla dottoressa Serri, anche al sito di Skineco, dove le mamme e le ragazzine possono trovare tutte le indicazioni per un acquisto consapevole dei prodotti cosmetici. Anche per le pelli, dottoressa Serri, che presentano qualche piccola imperfezione o si confrontano con brufolini, un inizio di acne? Certo, perché un po' di trucco non solo aiuta a sentirsi più a proprio agio dal punto di vista psicologico e sociale, ma è anche utile perché ha un'azione lenitiva sulla pelle e ha una valenza in più. Impedisce alla ragazza di toccarsi, grattarsi, schiacciarsi, perché quando è a scuola spesso si tengono le mani in faccia, ci si gratta. Col trucco questo lo si fa meno. Certo, bisogna scegliere dei trucchi adeguati al proprio tipo di pelle. Ci sono delle linee che ci sono delle linee hanno lavorato su che hanno lavorato su questo tipo di problematiche, ma in caso di acne e pelli arrossate, noi dermatologi chiamiamo acne anche la presenza solo di tre brufoli, è un'acne sì. lieve, quindi in un'acne da lieve, moderata a severa, il trucco fa bene. E per oggi allora chiudiamo qui senza trucchi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento prossimamente con la dottoressa Serri. Per oggi è tutto, grazie dottoressa, potete seguirci come sempre su Facebook e su Twitter, scriverci e soprattutto tornare domani. Anzi, ricordatevi sempre di scaricarci. A domani!